La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. L'articolo 21 garantisce la libertà di manifestazione del pensiero. La manifestazione del pensiero è una libertà così importante che la Corte Costituzionale l'ha definita pietra angolare del sistema democratico, proprio perché ovviamente in tutti i sistemi non democratici la prima cosa che viene limitata è la libertà di manifestare il pensiero. Che cosa si intende per manifestare il pensiero? Manifestare il pensiero è qualunque forma, anche qui la Costituzione è ampia, il diritto riconosciuto a tutti di manifestare liberamente il pensiero, con la parola, lo scritto, ogni altro mezzo, quindi manifestare le proprie opinioni in qualsiasi campo. L'ampiezza del primo comma del testo costituzionale, che riguarda ogni mezzo di diffusione, lo rende ovviamente attualissimo perché un articolo del genere ti dà la piena libertà di manifestare il pensiero anche con tutti i mezzi più moderni della tecnologia e copre ovviamente quindi internet e tutte le sue applicazioni. Segue poi in Costituzione una disciplina di quello che all'epoca del 1946-47 era il principale mezzo di comunicazione e di informazione, che è la stampa. Cosa riconosce la Costituzione? La Costituzione riconosce che c'è piena libertà di informare, di informarsi e di essere informati. Quindi la libertà dell'informazione si declina in tutte le tipologie, passiva, attiva e riflessiva. Informare, informarsi ed essere informati. E quindi la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, come invece in tanti regimi meno democratici era accaduto e accade. L'articolo 21, dopo aver proclamato la libertà di stampa, prevede i casi in cui ci possano essere dei sequestri o anche un sequestro preventivo della stampa, ma questo deve essere sempre per atto motivato dell'autorità giudiziaria e in casi eccezionali. Anche qui, avendo il Costituente attenzione precisa a porre direttamente e subito le garanzie che occorrono per limitare le libertà. Perché? Perché il Costituente sapeva che doveva scrivere una carta che da un lato fosse chiara, intelligibile immediatamente ai cittadini, ma che fosse al tempo stesso immediatamente applicabile, che quindi chiarisse subito quali sono le regole da applicare. In questo modo la Costituzione è riuscita subito a cambiare il paese applicando subito e immediatamente queste garanzie. Ecco allora che sulla libertà di stampa il dettaglio delle garanzie, il dettaglio sulla limitazione consente e prevede proprio la piena libertà. Ovviamente l'articolo 21 riguarda solo la libertà di stampa, ma tuttavia negli anni queste stesse garanzie sono state estese dalla giurisprudenza agli altri mezzi di manifestazione del pensiero e di comunicazione, quindi radio, televisione. Dobbiamo ricordare che proprio l'articolo 21 è stato il caposaldo su cui si è fondato tutto il mondo delle radio libere e delle televisioni libere, che negli anni 70 del secolo scorso hanno proprio lottato per la libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo, come garantito dall'articolo 21, perché l'articolo 21, anche qui il costituente che guarda lontano, garantisce la manifestazione del pensiero non solo con la parola e lo scritto, ma anche con ogni altro mezzo di diffusione.